Carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicate a Tenne Viaggio. E vi preannuncio che siamo arrivati questa sera, dovremmo cominciare a leggere lo spettacolare capitolo 24, che è molto lungo e veramente molto molto bello. È uno dei passaggi, a mio avviso, dove vengono molto ben descritti, ce ne sono anche altri, non è l'unico, alcune cose meravigliose della gloria accidentale, sia nel 24, il 25 e anche il 27 e il 28. Quindi siamo arrivati, credo, ad una sezione molto molto bella. Aumenterà, si spera, perché questo è il fine anche di, credo, di tutte queste cose che questa ragazza ha fatto vivere a quest'uomo. Aumenta il desiderio del cielo e soprattutto, aumentando il desiderio del cielo, l'uso dei mezzi necessari per andarci. Siamo già stati esortati a più riprese in questo senso. E lo saremo sicuramente ancora. Bene, io non perderei troppo tempo. Ricordo che la volta scorsa, la puntata dell'Oldrad della volta scorsa era dedicata alla problematica del dolore nel mondo. Quindi Dio non avrebbe mai voluto il dolore. Il dolore è entrato nel mondo a causa del peccato, e però attraverso il dolore vissuto con amore di carità si trasforma in felicità futura, è diventato uno strumento di redenzione. E ci è stato spiegato perché tutte quante le altre cose, la lode, l'adorazione, il ringraziamento, l'amore, noi glielo dobbiamo a Dio già di per sé. L'unica cosa che non è un nostro dovere di creature verso Dio è il dolore. Però il dolore, appunto, glielo diamo non per dovere di giustizia, il dolore sofferto santamente, ma per amore di carità. E quell'amore sofferto e quel dolore sofferto, scusate, santamente per amore di carità, diventa moneta per il cielo. L'unica cosa intelligente da fare quando si soffre, quindi prendere quella sofferenza, accoglierla dalle mani di Dio, offrirgliela con tanto amore, ecco, e così essere certi che quel dolore sta diventando già da subito moneta preziosissima per il cielo. Cominciamo la lettura, se no con tutte queste chiacchiere tardiamo le cose più belle. È molto grande la felicità che ti attende in cielo, disse tenera amata con tono di vibrante e composta solennità. E mi riferisco appena alla gloria accidentale, la gloria inferiore. Ti manca intravedere l'ineffabile gloria essenziale, ma vorrei che in qualche modo tu scorgessi un po' i minimi piaceri della patria. Per esempio, una melodia terrena è principalmente per il suo compositore. Nonostante ciò, il suo messaggio può risuonare in altri uomini che spiritualmente si identificano con lui. Tuttavia, siccome in tutto l'universo non esistono due persone esattamente uguali, per quanta simpatia esista tra quelle più affini, nessun'altra potrà recepire integralmente il messaggio musicale dell'artista. Questo perché il creatore non si ripete nelle sue opere. Perfino il nome nuovo e la manna occulta, la manna nascosta di cui parla il libro dell'Apocalisse, che lui ci regala nel cielo, sono singolari, insostituibili ed unici. Quindi noi mortali, dice Riccardo, comprendiamo e sentiamo a metà, meno che a metà. Assai poco, risponde Teneramata, di quel poco alla loro portata, ma quello che voglio dirti è che tu ed io non abbiamo una melodia che sia esclusivamente nostra. Scusami, ma la canzone La Pacarera, che tu cantasti quel tuo giorno del passato che stiamo visitando, è la nostra canzone. Risponde Serenamata. Analizza bene. Non è la fattura musicale ciò che di essa ti piace, è l'insieme di ricordi e di sentimenti, tra i quali sta il tuo amore per me. In realtà ami più quello che ti evoca che la musica stessa. Vedrai, in cielo comporremo la nostra propria musica. D'accordo con le ineffabili esperienze amorose che faremo al piacevole modo dell'aldilà. Ti Una musica che non esprimerà desideri di realizzazione, ma l'eterna realtà felice. Una melodia senza quelle note dell'esilio, come sono queste della terra. Per conto mio, penso già riguardo al canto che mi corrisponde. Incomincerai tu a comporre la partitura? E Riccardo risponde: Ma come, se non sono musicista? Risponde Teramata: Ma è molto facile che lo diventi, se raggiungerai un alto grado di gloria, mediante la tua collaborazione terrena con i disegni del Signore su di te. Non so che dovrò fare per scrivere musica. E niente meno che una partitura celeste. Mi pare che mi prendi in giro. No, amore mio. Sto solo sollevando un poco il velo che copre le delizie della patria. Per essere un genio musicale nel cielo, basta che tu ami il nostro Dio sopra tutte le cose e i tuoi fratelli di viaggio terreno per amore suo. In altre parole, ubbidire fedelmente la legge di nostro Signore Gesù Cristo. E sentite, la risposta di Riccardo che fa un po' ridere. Ah, è questo! Ma io credevo che questo serviva per raggiungere la beatitudine, non per diventare musicista dell'aldilà. Teneramata risponde. Se tu compi con perseveranza la divina volontà, non solo andrai in cielo, ma avrai anche gratuitamente, senza studi teorici o pratici, il glorioso titolo professionale di gran musicista celeste. Non occorrerà che suoni strumenti musicali, l'energia ti obbedirà nel cielo e produrrai suoni d'accordo con la tua volontà. Eserciterai quella e mille altre professioni ancora, e tutto in modo perfetto, non per necessità, ma per vocazione soprannaturale e per puro gusto, senza noia né stanchezza. Nella beatitudine non ci sono camere da letto, perché la grande felicità non dà fatica a nessuno. Va bene, forse sarà il caso di fare un primo stop. Mi sono dilungato un pochino nella lettura perché le domande e le risposte si rincorrevano un po', no? Ecco, la prima cosa secondo me da fare quando si ascoltano queste cose è ascoltarsi, cioè sentire le risonanze interiori che provocano in noi. Ci provoca sentire queste cose. Allora, i messaggi dati sono veramente meravigliosi. Allora, numero uno dice: Guarda, è molto grande la felicità che ti attende in cielo. E dice: Guarda, che mi riferisco solo alla gloria accidentale perché quella è essenziale, ce lo siamo detti tante volte. Non la può comprendere un viatore, non gli si può neanche trasmettere a un viatore nello stato in cui si trova. E tutto questo però è proporzionato, evidentemente, all'amore di Dio, quanto amiamo Dio in questa vita, e soprattutto c'è una menzione esplicita, è ovvio che sia così, a quanto facciamo la sua divina volontà. Altro particolare, questo non dimentichiamolo mai, Dio non si ripete nelle sue opere. Non esistono, due persone perfettamente uguali. Il mio nome nuovo e il tuo nome nuovo sono diversi. Il mio non c'era nessun altro. Il tuo e il tuo non c'era nessun altro. La manna nascosta che mangerò, si spera, speriamo io, è diversa dalla manna nascosta che mangerai tu. Vedete, Riccardo pensava che la pacarera era la loro canzone. E Tenera Amata lo fa riflettere e dice, ma no, probabilmente questa canzone non era manco tutto quanto sto granché, no? Dice, rifletti bene, non è che ti piace tanto la sua composizione musicale, la sua fattura musicale, ma i ricordi che ti evoca, perché ti ricorda il tuo amore per me. Ma non è un granché, ce la scriviamo in cielo la nostra canzone. Cioè, anche questo, che risonanza ti fa sapere questa cosa? Cioè, in cielo dovremmo scrivere qualche canzone d'amore, perché non è vale soltanto per loro, con qualcuna delle, con qualcuno, forse con tante delle fiamme d'amore che, come sappiamo, Dio ha stabilito, i nostri amori reciproci, che qui sulla terra non si possono compiere, ma li conosceremo, li diremo tutti quanti in cielo. E dice, ma io non sono buono a fare una partitura. Ma guarda che, attenzione che queste cose che ci potrebbero far sorridere, guardate che da un punto di vista teologico sono molto, molto, molto profonde, no? Perché, cioè, non è che è troppo difficile. Quando si partecipa di ciò che Dio è, ma la musica, il grande mistero della musica, ci siete mai chiesti? La musica da dove viene? Le sette note musicali, che sono sette, non otto, non nove, più le cinque variazioni, no? I diesis, i cinque diesis. Da dove vengono? Vediamo un'altra cosa. Pensiamo che Dio sia capace a fare una composizione, o Dio non è capace a fare la nona di Beethoven, per esempio. O forse Beethoven l'ha scritta sotto ispirazione divina, una cosa così bella. Allora, tanto difficile. Quando noi partecipiamo in paradiso, dice, quando andiamo in paradiso, dice San Tommaso, il Signore si mette tra virgolette chiaramente perché dobbiamo farci, al nostro servizio. Tu c'hai un desiderio buono e lui te lo esaudisce. Come? Non ci mette niente, ti comunica quello che è suo. Tu diventi piccolo Dio. Pensate che Dio si faccia difficoltà a comporre un'opera? E quanto ci metterà a comporre un'opera? Che ne so, un Rigoletto, una Traviata, un Barbiere di Siviglia. Quanto ci mette Dio a farlo? Supponiamo che non l'avessero fatti i nostri grandi artisti terreni. Quanto ci mette Dio a scrivere un'opera? Cioè, prima come dire, di precipitare giudizi un po' avventati o un po' affrettati, facciamoci sempre qualche domanda, no? Quindi? Dice, ma io non so suonare. Non sai suonare? Che ce ne importa che non sai suonare? Che ci vuole, no? L'energia ti obbedirà nel cielo e produrrà i suoni d'accordo con la tua volontà. O no? Tutto normale. Perché Dio ci delizia, ci beatifica in cielo. Ecco perché tutto quanto è proporzionato al grado dell'amore di Dio, no? Ecco perché il primo comandamento è sempre l'amore di Dio. Ecco perché fare la divina volontà, cioè, oltre che a farci campare alla grande in questo mondo, perché non è soltanto un problema del dopo, è anche un problema del durante. Ma più l'hai fatta e più queste cose le avrai. Penso che stiamo imparando che Dio è rigorosissimo nella giustizia. Non soltanto noi quando pensiamo alla giustizia pensiamo subito all'aspetto negativo, quindi alla punizione, al castigo dei malvagi, che non ci piace. E quindi qualcuno nega anche che esiste la divina giustizia, stoltamente ovviamente. Ma la giustizia funziona anche al positivo. Cioè se tu hai dato tanto al Signore nella vita, Lui ti darà tanto. Se tu hai dato poco, avrai poco. Per questo che io in continuazione cerco di dire e mi viene anche tanta sofferenza nel cuore, lo dico anche a voi, lo dico a chi sta sentendo questa povera conversazione, pensiamoci bene, abbiamo solo questa vita. Cioè, tenera amata non ha la possibilità di aumentare in gloria dopo. Lo avrebbe avuto se avesse fatto meglio sulla terra, ma finita l'esperienza terrena, è finita. Pensiamo bene, va? O no? Ecco, poi un'altra cosa, nella beatitudine non esistono le camere da letto. Non ci deve stupire questo qui. La stanchezza e il bisogno di dormire sono condizioni che fanno parte del nostro essere viatori, collegate al nostro stato di debolezza, di mortalità, di essere viatori, di stare nel tempo, con una materia ancora abbastanza pesantuccia, quindi che ha tante infermità e miserie. Dormire è una debolezza. Qualcuno mi dice che ogni tanto. Ma sai, Leonardo, ogni tanto la sera si vede che sei stanco morto, ogni tanto pure sbadigli. Dico, figlio mio, sono stanco. Cioè, attenzione, non mi sento, io mi sento sempre molto molto bene, per grazia di Dio, perché però delle volte ti prende un po' di stanchezza perché magari c'è stata una giornata impegnativa. Cioè, che faccio? Mi devo vergognare? Non c'è niente di cui vergognare. Se mi ha preso, mi ha preso. Cerco di fare quello che mi sembra che Dio voglia che faccia, quindi che sempre a chiacchierare, speriamo non chiacchierare, speriamo parlare, no? Non chiacchierare, perché parlare è una cosa buona, chiacchierare è un difetto. Però sono stanco, e quella è una debolezza, cioè la necessità di dormire è una debolezza, la necessità di mangiare è una debolezza, la necessità di bere è una debolezza. La necessità di lavarsi è una debolezza. La necessità di curarsi, i capelli, le unghie, tutte queste cose qui, è una debolezza. L'espletamento delle funzioni fisiologiche, perdonatemi, è una debolezza. Immaginate, avete visto quando abbiamo un'urgenza e ci troviamo nell'impossibilità di poterla, insomma, gestire? Che succede? Nei casi estremi, se provo in estremo, cioè tu c'è un limite, dopodiché, che fai? Sai che vergogna se capita una cosa del genere? È una debolezza, no? Tutte queste cose dall'altra parte non ci stanno, non esistono. Anche, come dire, noi abbiamo una potenzialità, perché Dio ci ha dato l'intelligenza, quindi possiamo imparare tante cose. Potenzialmente infinite sono le cose che possiamo imparare, ma qui lo dobbiamo fare con fatica. Per imparare un lavoro, un mestiere ci vuole tempo, per prendersi una laurea ci vuole tempo, per imparare qualcosa di nuovo ci vuole tempo. Ti devi mettere a studiare, e per studiare è fatica. Insomma, ne so qualcosa, è bello, ma è fatica. Facendo questo, ma in paradiso non funziona così. E adesso andiamo avanti con la lettura, così ci andiamo a deliziare un altro po', perché adesso il bello deve ancora venire. Quindi, nella beatitudine non ci sono camere da letto perché la grande felicità non dà fatica a nessuno. E dice Riccardo, pensa un po'. Io avrei voluto essere un campione di pugilato, soltanto che con le malattie, la vista scarsa, la vita sedentaria. E che risposta gli darà Teneramata? Lo sarà in cielo, se ti impegni per ottenerlo. Te lo assicuro perché è un desiderio che hai espresso. Sentite questa parola. Nella patria si compie ogni onesto desiderio terreno. Onesto. Che c'è di male a diventare un campione sportivo? Niente. Non è mica un desiderio illecito. Ma può darsi che qui, in questo mondo, non si realizzerà mai. In cielo a compimento ogni desiderio onesto, terreno. E nella misura in cui raggiungeremo un altro grado di gloria, i nostri desideri si compiranno tutti. E guardate che, questo se mi posso permettere una parentesi, quando si vive nella divina volontà, guardate che il Signore va avanti a sorprese, perché più di qualche desiderio te lo esaudisce pure di qua, in maniera sorprendente, amici. Dicevo che in cielo non si conoscono le frustrazioni terrene, fisiche, artistiche, professionali, amichevoli, amorose. Non ci stanno. Frustrazioni, eh? Sono frustrazioni fisiche. Che significa? Io vorrei averci un bel fisico palestrato, vorrei essere magro, vorrei averci tanti capelli. E invece non ce l'ho. Non sono né palestrato, magari non sono tanto magro. E magari non c'ho più capelli. Sono frustrazioni, no? Cioè vorrei altro, ma non ce l'ho. O no? Frustrazioni artistiche. Quante ne vogliamo, no? Vorrei essere un grande musicista, vorrei essere un grande chitarrista, ma non lo sono. Ah, poi non parliamo delle frustrazioni professionali, sia desideri realizzati, sia anche quando uno fa una professione reale e va incontro a delusioni, delusioni, delusioni, eccetera, eccetera. Amichevoli, gli amici che ci deludono, le delusioni nelle relazioni interpersonali, no? Osh, quante se ne vogliono. Anche i preti ne accumulano, non indifferenti, eh? Un bel numero, insomma. E poi le frustrazioni amorose. Quasi tutte frustrate sono in questo mondo. Sentite che dice, parlando delle frustrazioni fisiche. Qui sulla Terra i muscoli diventano agili e forti mediante duri allenamenti e un'adeguata nutrizione. Vuoi diventare un grande atleta? Sapete come campano gli atleti? Andate a informarvi. I grandi calciatori, i grandi tennisti, cioè. E quelli si sottopongono a allenamenti massacranti, quotidiani. Nutrizione rigorosissima, non possono mangiare quasi niente, ci sono delle cose che non le possono neanche toccare. A queste condizioni, sì, se avrai un grande fisico, sarai un grande atleta. Ma sono condizioni abbastanza pesanti, no? Ora, nell'aldilà, invece, mediante l'amore di carità, che è stato messo in pratica in questo mondo, si avranno tutte queste cose, senza fatica. Perché a un maggiore grado di gloria, attenzione, corrisponde un potere maggiore sulla propria biologia celeste. Chi è che aspira a diventare il belloccio della situazione, col fisico statuario, senza difetti, eccetera, eccetera? Guardate che io mi immagino se qualcuno fa il sorrisino e rida pure, rida. Non sono cose, cioè, per esempio, scusate, poi ne parlerà tenera amata, il desiderio di essere di aspetto bello, da dove viene secondo voi? Cioè, quello è vanitoso. Ma viene da un fatto molto semplice, che noi siamo stati creati da colui che è la bellezza stessa. Noi siamo naturalmente attratti verso il bello e capaci anche di riconoscerlo. Quindi il brutto, l'esteticamente brutto, il difettoso, non ci piace. Perché? Ma perché noi abbiamo dentro il cuore questo imprinting. Io vengo dalla bellezza stessa. Non potrò mai diventare bello come la bellezza stessa. Ma bello come sono bello io, sì. D'accordo, a un certo punto tenera amata, non so se l'ha già fatto o lo farà, come dire, legge sotto questo punto di vista, come dire, positivo, anche le cure eccessive che le signorine hanno per l'estetismo e per le bellezze, anche attraverso trucchi, trucchetti e cosmetici, no? C'è questo anticipo, c'è questa cosa verso cui tendiamo e che avrà piena soddisfazione soltanto in cielo, che in qualche modo l'uomo vorrebbe anticipare, e quando usa certi mezzi esorbitanti, certamente in maniera peccaminosa e disordinata, ma sulla terra, ma anche quando, come dire, si agisce disordinatamente sotto questo punto di vista, però, come dire, la molla, l'input, è questo. Quindi a maggior grado di gloria corrisponde un potere maggiore sulla propria biologia celeste. Quindi vuoi essere molto bello, tocca che avere un grado di gloria elevata. Sapete che questo uno può ridere quanto vuole. Tutti quelli che hanno visto la Madonna dicono che, cioè, che dire che è bellissima, cioè è poco. Sapete che non esiste nessuna creatura che è più bella della Madonna? Non è possibile essere più belli della Madonna, perché nessuno può eguagliare la gloria della Madonna. Allora, risponde Riccardo, sentite che dice adesso, eh. È ben diversa la ginnastica terrena da quella celeste, ma contro chi farò pugilato in cielo? Se lì è tutto pace e mansuetudine. Allora dice, ma scusa, ma in cielo i beati si amano, no? E sono tutti quanti d'accordo, sereni, sono pacifici, sono mansueti. Ma quando io faccio pugilato faccio a cazzotti. E che tu dici che in cielo mi si soddisferà la Brahma, dice, ma con chi lo faccio pugilato? Dice, lì è tutto pace e mansuetudine. Sentite la risposta. Cioè, questa è una provocazione per come noi ci immaginiamo il cielo. L'ho già detto altre volte, molta gente si immagina il cielo, ecco perché sono così sciocchi, che come una sorta di cattedrale certosina, che ne so, gotica, dove c'è il silenzio assoluto, dove ci stanno le veglie, le preghiere. Io le faccio tutti i giorni, non è che queste sono cose belle in questa dimensione. Ma il paradiso non è mica così, eh. Cedo la parola a tenera amata. Questo gli dice, lì è tutto pace e mansuetudine. È anche gioco. Chi conosce gli scritti sulla Divina Volontà? Dio gioca con noi, gioca. Gioca, gioca, non è gioca. È sport. Il paradiso è sport. Il paradiso è sport, è entusiasmo. Lì non ci stanno i piombi in paradiso, eh. Non ci stanno i piombi. È cameratismo. Non nel senso che conosciamo, ovviamente, no? Nel senso buono, quindi è quel sentirsi tutti quanti, come dire, parte di un tutto, tutti quanti soprannaturalmente legati, vicini. È l'eterna giovinezza. Ricordate il canto Quanta è bella giovinezza la lode, no? Che si perde tuttavia, chi vuole essere lieto sia, del domani non v'è certezza. L'eterna giovinezza, tutti siamo affascinati dalla giovinezza, pensate a livello sia artistico, culturale, ma anche a certi fenomeni politici di massa che hanno caratterizzato il secolo scorso, no? C'erano delle canzoncine che si chiamavano Giovinezza. Perché c'era il mito, no? I grandi regimi totalitari, che lì hanno proprio mostrato il loro punto malato, erano una sorta di tentativo di realizzare ciò che sarà in paradiso sulla terra al modo umano. Te lo scordi, non si può. Senza possibili lesioni, riprendo, né fastidiosi reumatismi. Troverai in abbondanza avversari forti e amichevoli. Dice, oh, e poi faccio un match di pugilato. E se vinco? Sentite che dice, il premio? Un abbraccio inenarrabile del Signore e un bacio compenetrativo della tua tenera amata. Più avanti si parlerà di questo bacio compenetrativo. Ma ragazzi, cioè, che dite? Ora, tanto magari dopo, finita la diretta, qualcuno interviene, no? Io quando parlo, cioè, non si può chiaramente fare un. Ma mi piacerebbe tanto state dentro i cervelli, dentro le teste delle persone. Io lo so quello che sei, che è quello che mi risuona interiormente sentendo queste cose, no? Mi piacerebbe. Che pensi? Un bel match di pugilato con avversari forti e amichevoli. Cioè, lì fanno il pugilato, no? No, come fanno qui, che avete visto i pugili, stanno tutti addannati, ti spiezzo in due, t'ammazzo. Ma no! Devi fare un bel match, d'accordo? Da amici, però. È pugilato, quindi qualcuno vince e qualcuno perde. E se vinco? Bene, un bel abbraccio inenarrabile del Signore, ma capite? Un abbraccio del Signore. E un bacio compenetrativo della tua tenera amata. Beh, insomma, tocca vincere lo sto match. Attenzione adesso. Rimasi perplesso per quel enigmatico bacio compenetrativo, ma in quel momento non me lo spiegò, lo spiega più avanti, lo spiega che cos'è. Fu grande la mia meraviglia poi quando intravidi questo mistero. Il mistero del bacio compenetrativo, che poi lo vedremo. Dice, se in cielo si pratica lo sport, continua Riccardo. Immagino che si senta anche la stanchezza fisica, soprattutto dopo un incontro di pugilato, non è così? Don't you? Risposta. Non si sente stanchezza al modo terrestre, dove quasi tutto vi sta contro. Là è una fatica muscolare senza molestie. Il sudare aumenta e si accelera il respiro insieme con i battiti. Ma non c'è logorio fisiologico. Potresti realizzare ininterrottamente 1.000 combattimenti. E avviene così dal momento che lo stimolo del piacere è molto forte nel cielo. Non ti stancherai come pugili mortali, anzi, godrai moltissimo di più che i migliori di loro. Spero che queste cose vi facciano anche un po' comprendere, no? Come anche tutte quante le cose, per esempio gli sport, le attività ludiche che fanno gli uomini, a quanto pare, sono una sorta di anticipazione pallidissima, però, e a prezzi molto alti, soprattutto in ordine di costi per certi tipi di attività, stanchezze. Tu vai a fare l'incontro del pugilato, te ne esci con gli occhi neri, stanco, morto, morbo, crepato. Ecco. Ma il cervello non funziona così. Dice, si suda, c'è l'aumento del battito cardiaco, quindi il che ci fa capire che la nostra fisiologia funziona in maniera analoga, ma non c'è logorio fisiologico e non c'è stanchezza. Mille combattimenti ininterrottamente. Sono tanti, eh? Proseguo la lettura perché prosegue anche a te nell'amata. Sarebbe opportuno che da oggi incominciassi a prepararti nello spirito per godere la stupenda gloria accidentale in allegre riunioni, scienze favolose, giochi e sport divertentissimi, arti appassionanti, comunicative convivenze. Questo è il paradiso. Cioè, là è stata divertirsi, amici cari. Io non vedo l'ora. Ma la cosa più meravigliosa. E adesso qui qualcuno salterà dalla sedia perché quando si entra in questo mondo, questo è proprio il mondo della divina volontà, si salta dalla sedia perché ci smonta tutta una serie di cliché e di persuasioni che uno ci ha sempre avuto, per carità, anche cioè, cose lodevoli, no? Sotto certi punti di vista. Ma bisogna smontarle, non è così. La cosa più meravigliosa è che il Signore gioca con noi. Il Signore gioca con noi. Ma se Luisa Piccarreta dice che il Signore gioca con noi qui sulla terra, gioca. E non si arrabbia come papà della terra, sentite, quando guastiamo i giocattoli, che consistono nel dominio della materia, delle energie, dello spazio, del tempo, eternità creata, sesta dimensione. Quindi sfasciamo un giocattolo, col suo volere, li riporta nuovi. Ma capiamo che roba. Risponde Riccardo, penso che tutti avremmo risposto così, ma io non avrei mai immaginato Dio che gioca con i glorificati. E sentite però la risposta, capite? Perché qui dobbiamo anche capire una cosa, che razza di idea ci siamo fatti di Dio? Molte persone si sono fatte un'idea di Dio, guardate che un'idea, mi si perdona il termine, satanica, ma non nel senso, cioè, un'immagine di Dio suggerita da Satana. Dio. Dio. Ah, Dio. Dio ti proibisce questo, ti proibisce quest'altro. Ti metti la croce. Può prendere la sua croce e mi segua. Ah, poi vuole che lasci tuo padre, che lasci tua madre, che lasci i campi. Tutto, lasciare tutto perché è presso a lui. Non devi avere nessun tipo di divertimento. Non puoi fare niente. Non puoi fare questo. È questo Dio? Sto esagerando, non sto dicendo che queste cose non siano vere, attenzione. Ma quando Dio ti proibisce una cosa, non commettere atti impuri. Ho fatto l'omelia questa sera, dato che oggi la lettera agli ebrei diceva che i fornicatori e gli adulteri saranno giudicati da Dio. Dico, capirai. Di questi tempi. La proibizione di queste cose non è un privarti di un piacere o di un divertimento, Dio non lo farebbe mai, se fosse solo un piacere o un divertimento. Ma è che dietro quella apparente cosa bella c'è il veleno, c'è la morte. Ecco perché Dio te la proibisce. L'abbiamo già visto. Perché dice prendi la croce? Perché il dolore abbracciato per amore di Dio si trasforma in moneta di gloria. Qui c'è il peccato in questa terra. Noi non possiamo mai dimenticare questa dimensione. C'è il peccato, c'è il grande peccato, c'è il peccato del mondo. Noi siamo in condizione di interdizione. Tutti, nessuno escluso. Allora, riprendo, non avrei mai immaginato Dio che gioca con i glorificati. E perché no? Se è il nostro Padre Celeste. Ma perché che un padre non ci gioca con i figli? La verità è che del Signore ti sei formata un'immagine severa e arcigna. L'amore non si oppone al rispetto, eh. Noi beati adoriamo il nostro Dio. E ci trastulliamo con lui. Notare il termine, no? Chi conosce la divina volontà quando sente trastullo, se uno andasse a fare una bella ricerca, che c'ha tutti davanti 36 volumi in versione unificata, e vede quanto ricorre trastullo, trastullare, trastullarsi, uff, buon divertimento. Ci trastulliamo con lui. E lui si trastulla con noi, inventa giochi, vedete, in continuazione, ma il Signore è un inventore continuo. E li promuove. Ha preparato la natura umana per magnifiche ricreazioni celesti. Guardate che queste cose stanno scritte nella Bibbia, perché la Bibbia non si può leggere soltanto quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste Dio ha preparato per coloro che lo amano. Sta scritto nel Nuovo Testamento. Sto citando a memoria. E tutto questo, si è preparato la natura umana per magnifiche ricreazioni celesti. Attenzione, e tutto questo mai stazionario. Mai noioso, sempre cambiante. Sapete che la ripetizione delle cose, anche delle cose belle, anche questa vita ci stanca, no? Non lo so se nella puntata precedente ho fatto l'esempio. Ti vedi un bel film, è bello, magari te ne voglia di rivederlo 2 volte, 3 volte. E dopo, però, sì, per quanto possa essere bello, te lo rivedi sempre volentieri se è proprio bello, però. Lo sai, se ne fanno un altro più bello, e tu sei contento di vedere un altro più bello. Tutto questo mai stazionario, mai noioso, sempre cambiante, nella linea della perfettibilità progressiva e senza limite. Cioè, voi capite che significa questa roba? Dura per tutta l'eternità, non finisce mai. Cioè, qui stiamo a fare il conto alla rovescia, ma se un giorno ci ritroveremo dall'altra parte, magari ci facciamo due risate, dice, oh, loro non ci hanno detto queste cose, ma mia, oh, tenera amata, eh? Peggio di quello che ci aveva detto, sicuro, 100%. L'eternità. Attenzione. Mai stazionario, mai noioso, sempre cambiante. Nella linea della perfettibilità progressiva senza limite. Non è finito, eh? Dentro un ambiente di sincero entusiasmo, niente musi lunghi. Io se mi vedo intorno ai musi lunghi, oppure quelli che sono un po' piombi, un po' pesanti, non è che mi sento a mio agio, eh? Dentro un ambiente di sincero entusiasmo, veritiero, effusivo. Con felici compagni di felicità con la F maiuscola, eternamente amabili e generosi, incapaci, per definizione nei beati, di causare il minimo dispiacere e difficoltà. Tutto tutti spinti dalla gioia e dall'entusiasmo infinito, tutti nella piena condivisione delle loro gioie. In contrasto con ciò che Teneramata aveva appena detto, io, meschino e afflitto, sentivo al vivo l'istinto della gloria futura, ma soffrivo per il mio egoismo contrariato e adesso che lo sapevo, incominciavo a ribellarmi contro le catene che legano la mia coscienza al momento attuale. Comincia a rosicare un po', comincia a scocciarsi un po', dice, ma tu guardi tutte queste cose qua e io adesso me lo sta in croce, con la coscienza legata al momento attuale e quindi devo aspettare prima che arrivano tutte queste cose. Anziché reagire con umili desideri di gloria futura, mi avvilii per questa misera condizione terrena e replicai la mia bella beata, sentita adesso, Beh, però nell'aldilà non avete né teatri né cinema. Abbiamo parlato di sport, d'accordo? Però il cinema e il teatro no, non c'è di là, no? Secondo voi? Dice, ci sono, ma molto perfetti, affermò pietosamente. Ti dicevo che invece di sale cinematografiche, noi visitiamo qualsiasi epoca della Terra o degli altri pianeti, contempliamo coi personaggi autentici i veri eventi della storia dell'universo. Non occorrono nastri di registrazione, trucchi o finzioni. Ricorda che gli eventi non scompaiono nel nulla. Stanno eternamente attuali nella quinta dimensione per informare il beato che voglia conoscerli o ricordarli in modo redivivo. Sì, continuai ad argomentare con un sentimento di tristezza difficile da reprimere, ma in cielo non si può rappresentare un'opera teatrale né filmare un soggetto di pura finzione. Sicuro, Riccardo? Sentite la risposta di Teneramata. Più di quello, noi convertiamo in realtà le fantasie. Allora, che significa? Immaginate uno sceneggiatore che sta qui, no, sul pianeta Terra. Alcuni sceneggiatori sono bravissimi. Ci sono dei film che sono bellissimi, anche delle serie che sono bellissime. Almeno per quanto mi riguarda. Uno le guarda e dice, ma guarda questo che fantasia. Solo che il problema è che tu prendi quella sceneggiatura e poi la devi trasformare in un film. Quindi devi fare il casting, devi fare gli attori, e poi devi trovare un bravo regista, e poi trovare un bravo montatore, e poi la fotografia, e poi la musica, la colonna sonora. Un macello, io non lo so come caspita fanno a. Cioè, che lavoro che ci sta dietro una roba del genere, no? Ah, in paradiso non ci vuole niente. La fantasia diventa subito realtà. La fantasia dello sceneggiatore diventa subito un film. Non dimenticare, e qui cita di nuovo San Tommaso. Lei forse non, cioè, lei lo sa, forse non lo sa Riccardo, non lo sa chi ascolta, lo so io però che lo conosco. Non dimenticare che gli enti dell'immaginazione, questo è San Tommaso lo stato puro, sono esseri possibili, cioè una cosa che noi ci immaginiamo non è una cosa reale, perché ce la stiamo immaginando, ma è una cosa possibile, è una cosa che potrebbe diventare reale, che non hanno l'esistenza materiale. Ebbene, noi gliela diamo e ci rallegriamo non solo immaginando, ma realmente vivendo le nostre fantasie. L'immaginazione terrena è un pegno del futuro potere dei glorificati. Pensate quanto è bello, per esempio, la vita di un figlio di Dio. Non sta a perdere tempo a stare a guardare i difetti del prossimo, a biasimare i comportamenti altrui, a tagliare a così. Ma dico, ma come dico? Dico, ma tu c'hai proprio tempo da perdere. Tu c'hai tempo da perdere e fegato da fatte amaro, ma sei proprio scemo sei. Se proprio non c'è niente da fare, fate qualche bel viaggio con l'immaginazione, pensa un po' alle cose belle, fa un po' di sogni a occhi aperti, no? Che ti costa? Così ti cominci a allenare, perché dopo se questi li rifai in paradiso, diventano tutti in realtà. L'immaginazione terrena è un pegno del futuro potere dei glorificati. Non ti devi meravigliare, noi beati, vedete, siamo piccoli dei, non per essenza, è chiaro, ma per partecipazione dell'Altissimo, cioè i beati Dio li fa diventare degli altri piccoli se stesso, ovviamente per partecipazione, limitata tra l'altro, però reale. Riccardo dice, allora, fammi capire, ti immagini un argomento e soltanto con questo esistono realmente le scene? Le domandai con tutta la mia incredulità. Sì, lo posso fare. Certo è che, siccome non possiedo una grande immaginazione creatrice, lo spettacolo non mi riesce attraente, ma ci sono grandi beati che fanno meraviglie al riguardo. Oh, quindi che sono dei grandi sceneggiatori. Quindi i grandi beati ci faranno vedere qualche bel film celeste fatto da loro. Dai, questo dove l'avete mai sentito dire? Immagino, San Francesco, diamogli un nome e un cognome perché sennò poi fa questo in paradiso. Padre Pio fa questo in paradiso. O questa sta dicendo un sacco di frottole, allora spegnete il computer e staccate il podcast, non vedete più questi video, non li dovete guardare più, perché se sono cretinate non bisogna perdere tempo. Oppure se i beati fanno questi, i beati hanno un nome e un cognome, Padre Pio, il paradiso sta sicuro al 100%, e San Francesco pure. Dice, ci sono grandi beati che fanno meraviglie al riguardo. Quando loro ci invitano, capito? Ti invita al cinema, Padre Pio. Noi glorificati inferiori, ma godiamo moltissimo. Il solo limite alla realizzazione delle oneste fantasie è l'assurdità, già che essendo cosa pazzesca e falsa non può esistere. Devo dirti che i migliori artisti dell'immaginazione celeste sono gli autori falliti nella loro vita mortale, quando non riuscirono a realizzare la loro opera per servire il loro prossimo con amore di carità. Guardate che bello. Risponde Riccardo, è che la fantasia non ha limiti. E ribatte Teneramata, ancora meno ne ha l'onnipotenza divina, alla quale prendiamo parte. Non ci sono limiti dell'onnipotenza divina. Ma come fate per dare esistenza materiale ai pensieri? Dice Riccardo. Dice, il nostro Dio dà loro l'esistenza per farci piacere. Cioè, ce l'hai dentro la testa tu l'idea di un Dio che si muove anche adesso, anche ora, non, queste cose vivono in pienezza in paradiso, ma Dio vuole farti felice anche adesso, vuole farti piacere anche adesso. Non dà retta all'immagine distorta di Dio, che è uno che ti complica la vita, che è uno che ti toglie la gioia, che ti priva i piaceri. Non è così, queste sono idee che vengono dal diavolo, non è così Dio. Certo, in questa vita non ci dà questi, cioè se io penso una cosa non è che mi si materializza. Questo è riservato al paradiso. Ma ci sono tante cose belle che il nostro Signore può e vuole farti vivere qui. Chiaramente se ti metti in condizione di viverle, e guarda che la condizione per viverle qui è la stessa di quella per viverla di là, è l'amore di carità. Se tu lo ami e fai la sua volontà, ma vedrai quante cose che ti darà. Ma nei libri di cielo c'è scritto che per chi vive la divina volontà sono riservati grazie e prodigi mai visti, mai uditi, mai sentiti, mai successi. Spettacolo Sta scritto, se no bisogna prendere pure tutta quell'altra che è l'altra roba, l'opera della Piccarreta, prendere e buttarla tutta quanta nel water. Buttiamo tutto, buttiamo. Stanno scritte queste cose. Allora, o sono fantasie, o sono farneticazioni di qualche mistica o pseudomistica. Pensiamole tutte, pensiamole. Facciamo l'avvocato proprio del diavolo, che peggio non si può. Oppure? Sono autentiche? Vengono da Dio? Mi fanno resettare completamente una certa idea che ho? Magari. Il nostro Dio dà loro l'esistenza per farci piacere. Noi semplicemente l'attualizziamo. Leggo l'ultimo episodio, affinché ti convinca, ti riferisco a un dialogo al quale ho assistito nel cielo tra il nostro Dio e un poeta glorificato, mio amico, autore di certi versi mal rimati ma pieni di amore. Sentite che roba. Mi piace moltissimo il sonetto che mi dedicasti sulla terra, gli disse l'Altissimo. Cioè, tu pensi a Dio che ti dice: mi piace moltissimo il sonetto che mi hai dedicato sulla terra, è tanta roba questa qui, no? In realtà è opera tua, Signore, risponde il poeta. Tu mi desti la sete e l'occasione. Mi dispiace che per la mia scarsa collaborazione mi sia venuto abbastanza male. Non fa niente, dice il Signore. Mi piacciono i tuoi versi perché corrispondono, sentite bene la motivazione, alla singolare sfumatura del mio amore verso di te. Nome nuovo. Ma non sono io l'autore, tu sei stato il poeta, e poeta per amore verso di me. Sentite che gli dice il nostro Signore. No, Signore, risponde lui, tu mi desti ispirazione, tu sei l'artista. Ah, Dio gli dice: va bene, figlio mio. Facciamo così, il sonetto è di entrambi, già che viviamo consumati nell'amore. Ritorniamo alla mia amata terra e facciamo perfetto il nostro sonetto. Ha capito? E fu così, entrambi, servendosi della quinta dimensione, Dio e il poeta, ritornarono a questo mondo, nei precisi spazi-tempi in cui il mio amico scriveva quei versi. Si misero nel ritmo temporale più idoneo e il nostro Dio fece sentire al mio amico il dolce peso dell'amore divino. Ovviamente i versi cambiarono metrica e diventarono così perfetti che sono audite, famosi in tutto l'universo. Capito? C'è un poeta che a quanto pare non era tutto quanto sto granché, che ha scritto quattro rime messe malamente, che però esprimevano il suo canto d'amore al Signore. Al Signore gli è piaciuto. Torna nella quinta dimensione, glielo fa perfezionare, lo fa conoscere a tutti, e i versi diventano famosi in tutto l'universo. E Riccardo dice: ma non vorresti recitarli? Impossibile. Non resisteresti essendo mortale. La loro bellezza rapisce e fa commuovere di emozione perfino il beato più preminente. Ci fermiamo qui. Penso che possa veramente bastare. Ma la prossima volta, così facciamo sempre come le migliori serie TV, ci avremo un inizio strepitoso, perché cominceremo con i vini e i liquori celesti, e quanto sono buoni, quindi specialmente per chi gli piace un pochino, con moderazione in questa vita, mi raccomando, bere qualcosa di buono, sappia che quello che l'aspetta è super. Ci vediamo la prossima volta, se Dio vuole, amici cari. Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga.